Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! Bentornati su Radio Wombat e su Basement Records. Buonasera a tutti da Radio Wombat. Qui con voi per questo sabato sera il Pro The Frog e il Dalai Lama. Il prodissimo Dalai Lama. Per farvi ascoltare del gran vinile rigorosamente ritrovato nelle cantine, nascosto da anni. 100% vinile e 100% 45 giri, sì. Ricordiamo. Esattamente. Allora, partiamo subito. Possiamo dire che è l'ultima puntata di Basement Records? Quanto meno in una certa forma. Non lo sappiamo. Chi lo sa? Magari risorge dopo 3 giorni, Perché ci dicono che siamo una trasmissione un po' fantasma. E effettivamente, diciamo, un po' lo siamo, perché non ci presentiamo bene, Ma ci piace anche esserlo, perché sì. Ora dalla radio non ci possano vedere in faccia, ma... Sì, siamo fumosi, siamo provvisori, andiamo in onda ogni tanto, quando ci pare, durante il sabato notte. Quando ci pare, se ci pare, in puro spirito piratesco. In puro spirito Wombat. Allora, cominciamo subito, tanto ormai avrete riconosciuto di sicuro la sigla. I nostri più fedeli ascoltatori, ecco. E non solo, l'avranno riconosciuto con l'incrocio tra musique concrete e psichedelia di Pierre Henry con i suoi hyper sound nel 1967, se non mi ricordo male. Ecco, puntualizziamo. Puntualizziamo. Poi l'avrete riconosciuta, come dico sempre, che diventerà negli anni 90 e inizi 2000 la sigla di Futurama di Matt Groening. Bene, partiamo subito con il primo 45 giri. Questi sono i Blackfoot Sioux. E direi che si parte subito con la pompa. Parte subito bene. Un gruppo formato nel 1970 da, pensate un po', da due gemelli, Tom e David Farmer. E il primo un bassista e il secondo batterista. E dopo si aggiunse un altro elemento, che era il chitarrista Eddie Golga. E vi presentiamo entrambi i lati di questo 45 giri. Sì, io li farei sentire tutte e due. Di solito magari qualcuno diceva nelle altre puntate che eravamo partiti sempre molto soft, molto romantici. Allora stavolta li facciamo vedere noi, e si parte con i Blackfoot Sioux. Let's rock. E appunto il primo lato c'è il brano Standing in the Road e Celestial Plane nel secondo lato del 1972, e questo gruppo ha avuto un discreto successo tra il 1970 e il 1972, però hanno avuto comunque una breve carriera, anche se abbastanza intensa. Si parla proprio di quelle che vengono dette in inglese One Hit Wonders, ovvero le stelle comete delle classifiche, che entrano in classifica con un singolo, ma poi destinate a sparire dai radar della storia della musica. Sì. C'è un sacco di esempi, e questo è uno di quei gruppi considerati One Hit Wonders, che hanno avuto appunto con questa Standing in the Road una presenza anche abbastanza alta nelle classifiche, ma poi non sono più riusciti a ripetersi. Però io li farei proprio sentire questi Blackfoot Sioux. Andiamo con Standing in the Road. Yeah, rock and roll. E questa era Standing in the Road, il successo dei Blackfoot Zoo. E ora si diceva che magari si potrebbe far sentire anche il lato B, che secondo me ne vale la pena. Il lato B, che Celestial questi, Plane. Di questi One Hit Wonder, mentre il prossimo artista, il prossimo disco che andremo a presentare non è proprio un One Hit Wonder, no? Che lo mettiamo... Certo, sì. Mettiamolo, vai. No, facevo due chiacchiere così per aspettare il cambio lato. Sì. No, ma per ora riascoltiamoci. Volevo far sentire questo lato B dei Blackfoot Zoo. Celestial Plane. Visto che hanno fatto solo una hit nella loro storia, mi sembra facciamo giusto far sentire anche quantomeno il lato B, se no che vengano sempre solo ricordati per l'unica cosa che hanno fatto, che è entrata in classifica, mi sembrerebbe insomma... Ricordiamo tutto. Visto che siamo anche un programma di ricerca e di informazione, facciamola completa questa informazione, no? E ascoltiamoci anche il lato B, quindi... Prego, di questa... Enjoy and Wombat. Celestial Plane su Radio Wombat, Basement Records. E questi erano Blackfoot Zoo con Put It On Me. Ti dirò, guarda, forse a me piace più il lato B del singolo più famoso di loro, entrato in classifica. Mi piace sì, più questa, sì, concordo, questa concordo. Celestial Plane, guarda. Sì, siamo proprio alternativi noi. Poi, come avevamo già detto, l'eterna disquisizione tra il lato A e il lato B. Infatti il lato B nuovissimo. Sono due filosofie di vita, Bene, quindi andiamo avanti con quest'altra meteora della musica mondiale. Sì, che meteora questa, però mi sa che è rimasta piantata nel terreno. Sì, è più una luna, un satellite. Stiamo che parlando. Secondo me, se a qualsiasi ora del giorno e della notte, qualsiasi giorno, se passate da Las Vegas, troverete un concerto, uno spettacolo di questo personaggio. Sì, ormai in uno stato di mummificazione botulinica, quasi da museo delle cere, vero? Perché se passa davanti a una stufa o non so cosa rimane. Ma Las Vegas è un po' un museo. Las Vegas è Las Vegas. E ovviamente stiamo sparlando della Cher, che conoscerete sicuramente tutti quasi certamente nella sua odierna versione di questi giorni, insomma. Però che ricorda un po' le sante mummificate dentro le chiese, nelle teche, però lei si muove ancora. Però la nostra buona Cher è stata all'inizio degli anni 70 anche una grande interprete di rhythm and blues insieme all'allora marito Sonny Bono, che è stato appunto un grande musicista e compositore rhythm and blues. E comunque i suoi esordi nella carriera sono dovuti proprio a quello che poi diventerà il suo primo marito, perché non so a quanti siamo di numero, però Sonny Bono è stato il primo e quello che si può dire che l'ha lanciata. Infatti inizialmente il duo rhythm and blues era Sonny e Cher, appunto. Poi Sonny è passato a fare le vesti del solo produttore, e il 45 che ci andremo a sentire a brevissimo è l'esordio della nostra Cher da solista, non più insieme a Sonny, che sarà sempre con lei come produttore, ma questo è l'esordio a nome solista del 1972. E non buon prog, mi rinfreschi la memoria su come si chiamava questo album. Questo singolo si chiama Don't Put It On Me. Sì, ma è estratto dall'album, non me lo ricordo. Ah, è questo, guarda, Gypsies, Tramps and Thieves si chiamava l'album, ecco, che contiene appunto il primo successo del 1972, e questo The Way of Love, che è il lato A, è il secondo singolo di successo estratto da questo album. Ma noi, per essere diversi come sempre, non vi faremo sentire The Way of Love, bensì il lato B, che è Don't Put It On Me. Put it on. Can't you see it's not the same now? Everything I was, what I used to be, you went and changed now. Don't put it to me. Don't make me bless each day and live each day and die each day. Each sunny day you knew me. Don't put me through it. Don't say you told me someday you might leave and that I knew it. Baby, don't you know you're for you. Once someone does that, there's no turning back and there's no more to do. molto diversa da come canta tutt'oggi. È bellissimo, bellissimo questo lato B. Infatti vi volevo proprio far sentire questo invece del classico ballatone strappalacrime di The Way of Love. Questo è bellissimo, sì, con tutti questi un brano cambi. Molto, molto complesso, sì, cambi di ritmo, cambi... Molto ancora legato ai rhythm and blues, secondo me, del marito. Infatti è scritta e prodotta dal marito, questa qui. Si sente ancora la mano pesante il di Sonny. Sì. Allora, continuiamo con... Passiamo a un altro peso massimo. Un altro peso massimo della musica degli anni 70 e non solo. Stiamo parlando di Isaac Hayes, un musicista, compositore che ha iniziato... Tutto, arrangiatore. Arrangiatore, ha scritto anche colonne sonore, che poi parleremo. Esatto. E, ma soprattutto è stato un autore. Anche, un autore. Soprattutto all'inizio, perché... È stato uno dei grandi autori di Casa Stax, che ricordo era la Stax Records, era l'etichetta concorrente della Motown, e la Stax di base a Memphis, Tennessee, infatti il suono della Stax è detto Memphis Sound, e Isaac Hayes inizialmente per la Stax aveva... scritto diverse canzoni, fra cui due grandissimi successi portati ai primi posti della classifica da Sam e Dave, che sicuramente ricorderete, Hold On, I'm Coming, e l'altra era Hold On, I'm Coming e Soul Man, scusate, un lapsus, non mi veniva l'altro, quell'altro è ancora più grande successo di Sam e Dave. Comunque sono state scritte entrambe da Isaac Hayes, e questa vi farei sentire all'inizio, se siete degli ascoltatori attenti, ve l'avevo già fatta sentire nella sua versione originaria, che era quella di Luther Ingram. Sempre altro grande artista funky soul di Casa Stax, e come era di uso negli anni 60 e anni 70, quando un pezzo aveva un grande successo, poi veniva passato con cambi di arrangiamento da un artista all'altro della casa, reinterpretandolo in modo personale. E quindi io farei sentire la versione di Isaac Hayes di If Loving You So Wrong, I Don't Want To Be Right. Che ne pensi? Del 1973, Isaac Hayes, qui su Radio Wombat. To live without you, I'd rather live a wrong-doing life. You're wrong. Your mom and daddy say it's a shame, it's a downright disgrace. But as long as I got you by my side, I don't care what you people say. Your friends say it's no future in love, and I'm married, man, and I can't. am I wrong to fall so deeply in love with you? Lord, I got a wife and two little children depending on me too. Am I wrong to hunger for the gentleness of your touch? Lord, I got someone else at home who needs me just as much. And are you wrong to give your love to a married man? Am I wrong to try to hold on to the best thing I ever had? Your love is wrong. I don't wanna be by. Love is wrong. I don't wanna be by. I don't wanna be by. I grandissima voce, grandissimo, grandissimo brano questo di Isaac Hayes. E da segnalare che nel 1971 compose la colonna musica, quindi il tema musicale del film Shaft. Colonna musica, come ci insegna la nostra Mr. Orange di Coming Song. Un saluto a Mr. Orange. Che è un film del, come hanno parlato i nostri amici e le nostre amiche di Coming Song, una punta di diamante del genere blaxploitation. Il film Shaft, in italiano Shaft il Detective, del 1971. E Shaft è sempre fatto da Isaac Hayes, appunto. Sì, sì, diciamo il tema musicale del film. E nel 1971 vinse il premio Oscar per come migliore canzone. E tra l'altro, se non ricordo male, è stato il primo artista nero a ricevere l'Oscar per qualcosa. 1971. Allora, come ci ricorda Mr. Orange, la prima attrice nera a vincere l'Oscar fu l'attrice di Via col vento. Sì, però che però non andò a ritirare per protesta la famosa statuetta. Invece Isaac Hayes ci andò a prendere la statuetta. Era proprio completamente un'altra epoca, erano altri anni, e comunque la sua presenza, diciamo, sul palco degli Oscar e fu una presenza importante, non da poco, ecco. È stato il primo a andare a prendere l'Oscar, e è stato il primo a ricevere questo premio in ambito musicale. Volevo farvi sentire di questo 45 anche assolutamente il lato B, un pezzo di cui sono particolarmente affezionato, anche questo, perché poi in una versione che è stata scritta, non, mi sembra un anno o due forse dopo della versione originale appunto di Isaac Hayes. Nella versione dei Main Ingredient è diventato veramente un grandissimo classico dell'inizio della scena disco a New York di fine degli anni 70, questa Rolling Down a Mountainside. Ma anche questa versione di Isaac Hayes è abbastanza funk per il suo soul classico, e quindi ne vale assolutamente la pena di sentire quello che secondo me è un pezzo di storia, almeno per un genere di nicchia, ecco, come può essere considerata la disco. E questa è la versione originale, nella versione funky soul di Isaac Hayes, di Rolling Down a Mountainside, Radio Wombat, Basement Records. Winners and losers, everyone must play fair. All you beginners know that you've got to start somewhere. Whether you're saints or sinners, smile and share. Sunlight as well as shadows, while you learn, let everyone care. Across the bed, and we'll never dare to live alone, 'cause we're not stones rolling down a mountainside. We all count, yes we do, and we got strength and we got pride. Come on, God is on our side. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Smile, smile, and you'll make him listen to you while you teach the truth that we'll be alright, yeah. Birds will stay in flight. Don't worry, they will fall alive. Yes, we'll just keep the truth inside. But not alone, no, we're not stone. We got pride. side. You said, boy, don't worry about a thing. No, no, no, no, you're on my side. We got to work together. We got to live together. We got to love together. You're on our side. Yeah, yeah. Just thank the Lord. Thank you, Lord. E questa era la grandissima Rolling Down Mountainside di Isaac Hayes, e... che appunto era il lato B di If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right. Però questo era il lato B, che poi, appunto, come ho detto, ha acquistato una grande importanza anche questo lato B, anche se in mano rimaneggiata dai Main Ingredient poi qualche anno dopo. Bene, e passiamo al prossimo artista, al prossimo altro musicista. Direi campione dei pesi massimi, sì. Proprio, qui. Grande, grande puntata questa sera su solo, Basement Records. Solo creme per Basement Records. E ce lo vuoi introdurre te? Di chi parliamo? Stiamo parlando del mio caro amico Giacomino Marrone. James Brown, appunto, penso che non abbia bisogno di presentazioni. Nel caso avesse bisogno di presentazioni, vi rimanderei alla puntata di Tonight Alive dedicata appunto nello specifico a James Brown, e se non mi ricordo male in quella puntata divideva la puntata insieme a un'altra grandissima come Aretha Franklin. Se volete sapere qualcosa di più su di lui, io vi rimanderei appunto a riascoltarvi i podcast sempre disponibili sul nostro sito wombat.noblogs.org, è bene ricordarlo sempre. Certo. E magari possiamo rinfrescare la memoria dicendo che va bene, è stato veramente un grandissimo e lo dovreste sapere tutto quello che ha fatto nella musica, però ha avuto anche una vita molto, molto vissuta il nostro Giacomino Marrone. Infatti già a 16 anni aveva fatto la conoscenza delle patrie galere degli stati del sud degli Stati Uniti, pensando bene di andare a raffinare negozi insieme ai suoi amichetti. E poi è entrato a gamba tesa, direi, nel mondo della musica e ha fatto una grande scelta, ecco. E questo pezzo qua, Get Up and Feeling Like a Sex Machine, penso sia un pezzo universalmente conosciuto, quindi non saprei neanche come fare a introdurvelo più di così, ecco. È un pezzo che è proprio un pezzo di storia, questa canzone. E direi che tanto vale ricordare la band stellare che accompagnava in quegli anni nei concerti James Brown, sì. Perché se James Brown è stato un assoluto mito, anche la sua band è veramente nella leggenda della musica, anche perché James Brown, come tutti i geni della musica, era anche un grandissimo figlio di puttana con quelli con cui suonava, sì, insieme. Era insopportabile. Era diciamo. Insopportabile e pretendeva dalla sua band niente di meno della perfezione, e quindi erano veramente una band di mostri sacri. Quindi è doveroso la pena, secondo me, ricordare uno per uno. E ricordiamo appunto James Brown alla voce e talvolta al piano, Clayton Chicket Gunnels alla tromba, Daryl Hassan Jamison alla tromba, Robert Chopper McCallough al sax tenore, Bobby Bird organo e voce. Grandissimo Bobby Bird. Phelps Catfish Collins alla chitarra e suo fratello William Bootsy Collins al basso. I due fratelli che erano il vero motore, direi, dell'orchestra di James Brown, che hanno in due hanno praticamente inventato il funk dal niente. Va riconosciuto ai due fratelli Collins almeno questa cosa. E le due batterie che si... Due batterie già a metà degli anni 60, pensate un po'. Con John Jabbo Starks e Clyde Stubblefield. E alle congas Johnny Griggs. Questa era più o meno la formazione base, sì, dell'orchestra di quegli anni. Poi ha avuto diversi cambiamenti l'orchestra, perché insomma lavorare con Brown non era sicuramente facile, quindi c'è stato abbastanza ricambio all'interno della formazione. E una curiosità su questo 45 giri: Sex Machine è un pezzo che nella sua versione estesa dura quasi 8 minuti, e questo, come era uso in quei tempi, specialmente per i 45 giri, è diviso in due facciate che vi faremo sentire entrambe, però cioè, la prima parte di Sex Machine è sul lato A, e essendo un pezzo di quasi 8 minuti, e come non smetterò mai di ricordarvi, in un 45 classico da 7 pollici massimo ci entrano 3 minuti e mezzo per facciata, e quindi questo singolo è diviso in due parti, lato A e lato B, che vi farò sentire entrambi se avrete quei 5 secondi di pazienza per farmi girare il vinile. Però partiamo subito con questa pietra miliare della storia della musica, Sex Machine, James Brown. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Okay. 1, 2, 3, 4. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Machine, get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, I like a sex machine. You got to have the feeling, sure your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up. Versi. Allora, tergiversiamo un po' per cambiare lato di James Brown. Libero, libero. Vai. Libero. Enjoy. Questa era Sex Machine di James Brown, un pezzo veramente una pietra miliare della storia della musica. Bellissima. Chissà quante volte l'avrete sentita e quanto avete mosso questo culo sculettando su questa canzone, non si sa. No, ma bellissimo questa cosa di tagliare il brano in due un po' così con l'accetta, no? E i mezzi tecnici erano... Era quello. Se volevi sentirla intera dovevi aspettare poi l'uscita dell'album del 33, in cui poi l'avrebbero messa appunto nella versione estesa, ma completa appunto all'interno dell'album. Però era prassi far uscire prima il singolo, vedere se aveva successo e nel caso avesse avuto successo poi dopo costruirci intorno l'album. Quella era la frase dell'industria musicale ai tempi. E direi di passare al prossimo disco, che sono questi altrettanto grandi, altrettanto un pezzo di storia, anche se di un altro genere e magari anche di un altro calibro, ma neanche più di tanto, perché anche nel loro ambito musicale i Temptation hanno fatto la storia. Temptation era un gruppo di afroamericani di metà degli anni 60 che facevano fondamentalmente musica soul, o come si diceva al tempo, musica doo-wop, andavano questi gruppi vocali maschili o femminili bianchi, neri o anche qualcosa di misto, però era, ecco, la forma di musica, diciamo, soul, rhythm and blues, più commerciale, tra virgolette, in ambito delle musiche derivavano dal soul e dai rhythm and blues, dalle musiche nere, anche se poi ci sono stati dei gruppi doo wop anche, sì, era solo bianchi. Diciamo un po' patinata di bianco questa musica. Sì, no, era appunto musica fatta per entrare in classifica, quindi doveva anche strizzare un po' l'occhio a quelli con la pelle color candeggina, ecco, sì. Non poteva essere proprio rhythm and blues nero, perché se no non avrebbe, in quegli anni non avrebbe attecchito nell'audience bianco. Perché stiamo parlando appunto di metà anni 50? No, un po' più in là, di inizio, sì. Questo era stato inizio anni 60, ma sì, magari... No, ma comunque la musica doo-wop... Sì, la musica doo-wop è sì, metà è anni 50 comunque, questa è già l'evoluzione del doo-wop che porterà al soul degli anni 60 e 70, sì, il doo-wop è più una cosa degli anni 50, però... Qui ancora è nella sua fase, secondo me, molto vicino a questo stile vocale americano. E i Temptation sono stati un grandissimo gruppo di questo genere musicale. E ricordo che è stato l'unione di due gruppi distinti di bebop, che poi, diciamo, si sono messi insieme per fare questo, e si può considerare uno dei primi supergruppi, quantomeno in un certo ambito musicale. E nello specifico questi sono stati l'unione dei Primes, conosciuti anche come Cavaliers, dove militavano Paul Williams e il grandissimo Eddie Kendricks, e poi è l'unione anche dei contemporanei Distance, conosciuti anche come Otis Williams and the Distance, dove appunto militavano Otis Williams, Al Bryant e Pee Wee Crawford, tra i tanti. E tra l'unione di questi due gruppi vocali sono nati i Temptation, che adesso ci andremo a sentire con Smooth Sailing from Now On. Radio Wombat, Basement Records. io. Grandi, grandi, a me poi mi piacciono, anche se perché sennò poi non ve l'avrei messa, ecco. Che stai ragionando. C'è internet, se potevamo scegliere tutti i pezzi del mondo, invece no, abbiamo scelto questi per un motivo. Certo, grande Temptation. E allora andiamo avanti, intanto vi ricordo sempre il nostro sito wombat.noblogs.org e il nostro Twitter Radio Wombat Fi, Facebook radio-wombat-firenze e la nostra casella di posta che è postawombat@insiberia.net. E andiamo avanti con un altro grande gruppo dei primi degli anni 70, sono i Bar Keys. Grandi Bar Keys, che magari non sono sono anche loro degli assoluti pesi massimi di quei tempi, perché vi basti sapere che i Bar Keys erano la cosiddetta home band di casa Stax di Memphis. Stasera un sacco di 45 della Stax, e i Bar Keys erano proprio la house band di casa Stax, ovvero vuol dire che quegli artisti che non avevano una band di accompagnamento, se facevano parte della squadra Stax, gli veniva affiancato nel momento della registrazione in studio i Bar Keys. Ma oltre a essere appunto una band di turnisti, come si usa dire, poi hanno avuto anche una carriera tutta per loro, a nome loro. E specialmente mi viene da ricordare appunto di questo 45, proprio che ho qui sotto, pronto, sotto di me, a girare sul giradischi. E questo viene preso dalla colonna sonora di un altro grande, anzi del grande classico appunto della Bloxposition, come si diceva prima, e questo è Son of Shaft, preso proprio dalla colonna sonora di Shaft del 1971, come si diceva anche prima. E Bar Keys hanno avuto dei grandissimi successi anche come Soul Finger. Tra l'altro i Bar Keys sono anche un'altra chicca per farvi capire l'importanza che hanno coperto i Bar Keys, che nel 1967 sono stati scelti da Otis Redding come band di accompagnamento per i suoi concerti. E direi che, insomma, visto quello che rappresenta Otis Redding, direi che è proprio un grandissimo riconoscimento, ecco, della loro bravura e delle loro capacità. E hanno avuto anche altri successi come Soul Finger, ad esempio, ma hanno suonato insieme anche a tantissimi altri pesi massimi della black music di quegli anni, come ad esempio con Booker T and the MGs, con Al Johnson e con molti altri, oltre ovviamente al già citato Otis Redding. Quindi riemergiamoci in questa atmosfera da film da Blaxposition dell'inizio degli anni 70 con i Bar Keys con Son of Shaft su Basement Records, Radio Wombat. I'm the son of a bitch. Son of Shaft. Funky Sudine a 2000 veramente. Sì, sembrava di essere proprio dentro al film, dentro a un film della Blaxploitation degli anni 70. Che mi sa che non ci conveniva tanto perché si sparavano a diritto. Di sicuro noi due i primi. Segnati subito con la rocetta rossa inizio del film proprio, anche perché forse sarebbe stati tra i fuochi bianchi sì ci riconoscevano subito. Era quelle che si vedevano meglio. E quindi andiamo avanti qui a Basement Records con un altro gruppo del 1972, i Love Unlimited. Love Unlimited, perché si parla qui di un trio di ragazze, un trio di donne molto giovani, molto legate a un altro grande della musica, abbastanza direi grande in tutti i sensi. Sì. Parliamo infatti di Barry White, che era il produttore nonché il compositore delle musiche, nonché futuro marito di una delle componenti, nonché fratello di una delle componenti, nonché cugino dell'ultima componente delle Love Unlimited, diciamo un po' un family affair di casa White. Bene, questo è un singolo del 1972, se non sbaglio, sì, che esatto. Si chiama Walking in the rain with the one I love. Ma come, mano nella mano, sotto l'ombrello? Sentiamo un po' come ci andiamo. Come ci andiamo sotto la pioggia. Love Unlimited, Radio Wombat. Everyone's trying to get out of your mind. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. Soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good. So warm and free made our dream a reality. Let it last forever and ever. With every step we take and every breath we make, darling, just you. Questo è proprio un lentone da struscio, con tanto di pioggia. Sei walking in the rain, la pioggia ci voleva. E andiamo avanti con un altro grande artista, un altro grande musicista. Stiamo parlando di Cat Stevens, che tutti conoscerete. Da pochi anni, mi sembra, da qualche anno, un decennio, forse... Forse anche qualcosa di più, e gli anni passano, alla svelta. Forse erano gli anni... Ti piacerebbe, sì. Fosse passato... Ma diciamo che negli anni 90, a Manciate ha cambiato il suo nome in Yusuf Islam, convertendosi alla religione islamica. Nato come Steven Demetre Gheorghiu, o Giorgiu, Gheorghiu, quindi penso di origine est europea. Questa è una delle informazioni che fanno parte della rubrica. Non tutti sanno che ma nemmeno noi, sinceramente. Nemmeno noi se lo sapevamo. Sapevatelo. E nato a Londra nel 1948. E se il nostro Dalai Dama ci vuole un po' introdurre la carriera di Cat Stevens. Cat Stevens ha avuto, provenendo proprio dagli anni della Swinging London, della Swinging London degli anni 60, lui era proprio il più classico dei cantautori della Swinging London anni 60 nel suo inizio di carriera, anche se poi attraverso gli anni ha avuto diversi cambiamenti di pelle a livello musicale, non solo a livello di nome. E quella, tra l'altro, adesso vi farò sentire forse una delle sue canzoni più famose, Lady Darbanville. Poi ha fatto un altro suo grandissimo successo, è stato Wild World. Comunque ha avuto anche un grandissimo riscontro di classifica, ha avuto tantissimi successi a cavallo tra la fine degli anni 70 e metà appunto degli anni 70, ha continuato, sta tuttora continuando a produrre dischi nuovi, anche se ovviamente ha rallentato molto, però insomma anche lui direi un grosso calibro della musica, anche se pop, di quegli anni, era un fondamentalmente più incentrato verso la classifica, anche se poi si è impegnato anche in diverse iniziative, anche negli anni 80 ha partecipato a vari concerti di beneficenza, come era uso e costume, per il Live Aid, Live for Africa, anche lui. Vorrei eccetera, anche un'altra piccola nota da segnalare, riallacciandosi sempre al programma, alla trasmissione Coming Song, è stato l'autore di una colonna sonora del film dal titolo Harold and Maud, non so se avete presente, del 1971, del regista Hal Ashby. E un film diciamo abbastanza rivoluzionario, per non tanto come stile, come regia, ma quanto il tema era un po' scottante, a questa storia d'amore su una anziana signora e un ragazzo molto giovane che diciamo compie una specie di si trasforma un po' in un road movie un po' particolare, un po' anomalo, no? Questa signora e la colonna sonora, tra l'altro è la storia della vita di presidente francese. Sì, sì. Sono meno road, sono un po' meno road, un po' più Montmartre. Sì. E la cosa particolare è che è sia una colonna sonora, quindi extra diegetica, quindi che non fa parte della storia del film, e in parte c'è questa signora che suona il piano e suona un pezzo di Cat Stevens, anche molto, molto carino. Adesso andiamoci a sentire Lady D'Urbanville, che penso la riconoscerete tutti dopo 30 secondi, se così dal titolo non vi viene in mente. La riconoscerete, Radio Wombat. My Lady D'Urbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my Lady D'Urbanville. Why does it grieve me so? Your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My Lady D'Urbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. You look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My Lady D'Urbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La la la la la la. La la la la la la. la la la la la la la la la la la la la la la la la la. My lady Dabanville, why do you greet me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady, though in your grave you lie. You. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. E questa era Lady Darbanville di Cat Stevens, poi diventato Yusuf Islam. E come prossimo artista, giusto per proseguire in questa serata, un altro grandissimo che tutti avranno sentito nominare almeno una volta, anche se di un ambito musicale completamente diverso. E stiamo parlando del prossimo 45, che è Jimmy Cliff, il grandissimo Jimmy Cliff. Jimmy Cliff è stato uno degli iniziatori nel... Ora, non vorrei andare in un ambito dove poi le mie dichiarazioni potrebbero essere mendaci oppure smentite dai grandi esperti che mi circondano di musica roots, reggae, dub, ska e tutti affini, quindi vi darò sarò molto parco di informazioni sperando di non essere spernacchiato. Comunque Jimmy Cliff iniziò a pubblicare in Giamaica già nei primi anni 60, uno proprio che quando già stava venendo fuori il reggae dalla dancehall, e poi ha fatto anche comunque dei dischi ska. Però è stato, ecco, uno degli autori giamaicani che più si è fatto contaminare, diciamo, insieme a Bob Marley, con i suoni, diciamo, occidentali e non prettamente solo giamaicani. Anche se inizialmente Jimmy Cliff faceva proprio le sue prime pubblicazioni erano quasi solo ristrette al mercato interno, al mercato giamaicano. Poi con l'esplosione appunto del reggae, dello ska, ha aperto le porte, insomma, della Giamaica un po' a tutto il mondo. E ricollegandoci al disco di Cat Stevens di prima, questo pezzo, questo disco di Jimmy, questa canzone di Jimmy Cliff è una cover appunto di Cat Stevens, ed è Wild World, è stato appunto uno dei suoi grandi successi, uno dei suoi grandi successi da milioni di copie, qui appunto nella versione che ha dato Jimmy Cliff di questo successo di Cat Stevens. Tonight Alive, Radio Wombat, Jimmy Cliff. Something new, and it's breaking my heart. You're leaving, baby. I'm grieving. Questa era la versione di Jimmy Cliff di Wild World di Cat Stevens. Come avrete sentito, il disco è abbastanza usurato. Mi sa che è stato suonato diverse volte da Stefanone questo disco, a sentire dalle condizioni dei solchi. Il 72 l'ha finito questo disco. Mi sa proprio di sì. Essere stato un grande successo dei dance floor di inizio anni 70. Allora, visto che un saluto a Stefanone, un ringraziamento come sempre. Ringraziamento. E, vi volevo segnalare una serata per martedì 31 ottobre, quindi per la notte di Halloween, una serata al CSA Next Emerson in via di Bellagio a Firenze. Ci sarà dalle 19 una cena a buffet, un abbondante buffet offerto dal a buffet proprio in tutti i sensi. Sì, è scritto proprio a buffet. E se non sbaglio, presentato, preparato dalla colonica, dalla casa colonica occupata Il Rovo di Firenze Sud. Alle 20:30 ci sarà, quindi dopo la cena, la presentazione del libro Correvo pensando ad Anna, che verrà presentato proprio dall'autore Pasquale Abatangelo. È il racconto di una vita vissuta interamente nei conflitti sociali generati dal 68-79. È la storia di un giovane ribelle che dopo la strada e il carcere incontra i movimenti rivoluzionari di quegli anni. E eccetera, eccetera. E quindi ci sarà Pasquale Abatangelo a presentare questo libro. A seguire ci sarà una nottata all'insegna del rock and roll e del rockabilly. Non perdetevela, non vale la pena, mi raccomando, vestitevi a modino e come diceva Don Zauer, e pettinatevi anche a modino, perché ci saranno i Moggis da Mantova e da Piacenza con in puro stile rockabilly, e il Braso, un acoustic rock and roll da Siena. A seguire ci saranno i DJ dell'Emerson Setter Sound System, un impianto autocostruito dal suono profondo e retro come la radio di tua nonna, così scrivono sul sito. Quindi, ripeto, martedì 31 per Halloween. Saluto agli Emerson Setters. Agli Emerson Setters, grandi. E niente, andiamo avanti con Basement Records. E adesso è arrivato il turno di Brian Auger and the Trinity, che magari è un gruppo abbastanza sconosciuto, però Brian Auger è stato veramente un virtuoso dell'organo Hammond B3 e ha suonato veramente con tutti, passando dal jazz al rock, al rhythm and blues, che era veramente riconosciuto come uno dei grandi virtuosi dello strumento al tempo. Basti dire che ha suonato insieme a Rod Stewart, Tony Williams, Jimi Hendrix, Sonny Boy Williamson, i Led Zeppelin, giusto per citare solo i più famosi. E questo pezzo, Pavan, è un... a me piaciuto tantissimo quando l'ho sentito per la prima volta, questo vinile, che non avevo mai sentito, non conoscevo Brian Auger. È veramente un incrocio tra psichedelia e musica progressive, una musica molto particolare, tra l'altro un suono molto ricercato, ma dove si sente tantissimo l'influenza della psichedelia, secondo me, dei fine anni 60. E sembra proprio appunto un progressive rock psichedelico. A me piace tantissimo questo pezzo. Poi tra l'altro anche il resto dei componenti della band erano session man di tutto rispetto, che circondavano appunto Brian Auger e appunto loro i Trinity. E ricordiamo anche i componenti dei The Trinity. Dovutamente... Dave rendiamo gli omaggio in questo programma di informazione con Dave Ambrose al basso, Gary Boyle alla chitarra e Clive Tucker alla batteria, e ovviamente Brian Auger all'Hammond, organo Hammond e piano. E questo, se non sbaglio, è il secondo lato. È il secondo lato, perché volevo fare un appunto a Stefanone. Il lato A di questo 45 giri è sempre di Brian Auger and the Trinity, che però è una cover di Sly and Family Stone, è la loro famosissima I Want to Take You Higher, che non sarebbe stato male farvela sentire nella versione con questo organo indemoniato di Brian Auger, però evidentemente non lo possiamo fare, perché appunto volevo dire a Stefanone che nel lato A di questo 45 giri c'è una bella stizzonata nel mezzo della facciata A, e non è colpa mia. E quindi vi faremo sentire il lato B, che secondo me poi è ancora meglio, perché poi Pavan non è una cover, ma è proprio un pezzo di Brian Auger, e quindi nel male ci è andata bene, perché è ancora più originale. E questi appunto sono Brian Auger and the Trinity con Pavan, e su Basement Records, non su Tonight Alive, come avevo detto prima, però l'età comincia a fare brutti scherzi che ci volete fare. Brian Auger, Basement Records, Radio Wombat. grande organo di Brian Auger in questa versione di strumentale di Pavan. E passiamo adesso, direi, all'ospite speciale di stasera. Sì, un super ospite. Anche se alla fine sono quattro facciate e ne faremo sentire due, però l'ospite speciale di stasera possiamo dire che è appunto Bill Withers con 2.45, quattro facciate, anche ne faremo ascoltare la metà, però possiamo dire che lo possiamo considerare un po' l'ospite speciale di stasera, visto che ne abbiamo sempre scelto uno durante le puntate precedenti. Un prediletto, un prescelto. Un prescelto, e stavolta il prescelto è Bill Withers, che è stato, tra l'altro, un ottimo cantante, artista di quei tempi, di metà anni 60, e anche ha continuato la sua carriera fino agli anni 80, se non sbaglio. E questi 2.45 sono tutti singoli estratti dal suo primo album, Just As I Am, di che anno era, gentilmente prog, che la memoria mi fa difetto. Allora, mi sembra del 1970, se non sbaglio. 1970, e sono poi, tutti tratti dal... il 70 e il 71, sì. Sì, no, si va poco più in là. Sempre con i nostri riferimenti precisi. Sono tutti singoli estratti dal suo primo album, che è stato un grandissimo successo, specialmente trainato da quella che è forse la canzone più famosa di Bill Withers, che è Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. Avete presente? Ecco, trainata dal successo di quel singolo, poi uscì il successivo album, l'album contenente Ain't No Sunshine, e il secondo singolo estratto da quell'album è questa Grandma's Hands, che è stato anche questo un singolo da almeno un milione di copie, se non mi ricordo male, anche perché Bill Withers in quegli anni ha sfornato diversi successi che l'hanno portato in classifica, e quindi farei sentire appunto questa Grandma's Hands, che ha sopra una nota di colore sul 45 originale dell'etichetta Sussex, cioè una specie di post-it, un quadratino bianco con segnato dal lato di Grandma's Hands Hit Side. Quindi in quegli anni 70 credo di intendere che sia stato veramente un grande successo, anche perché insomma ha venduto milioni di copie in America, quindi direi che gli ha abbastanza spianato la carriera dopo la hit di Ain't No Sunshine. E questo appunto è Bill Withers con Grandma's Hands. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast, might fall on a piece of glass, might be snakes there in that grass. Grandma's hand, Grandma's hand soothed the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her, she'd say, baby grandma understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hand. Grandma's hand used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand. Questa era Grandma's Hands, dal primo album del 1971, Just As I Am. Comunque, anche se non si vedono i nostri dischi, si sentono, no? Sì, ogni tanto qualche screcciata involontaria della puntina sul vinile, perché siamo autentici. Stiamo davvero mettendo i vinili uno dopo l'altro sui nostri giradischi. Non siamo qui tanto per chiacchierare e poi facciamo partire la MP3. E quindi andiamo avanti con il nostro super ospite della serata. E questo è... Sto montando l'altro 45 e questo è Better Off Dead, sempre estratto da Just As I Am del 1971, da cui a quanto pare hanno tirato fuori diversi singoli, deve essere stato proprio un grande successo. E questa appunto è sempre Bill Withers con Better Off Death. She couldn't stand me anymore, so she just took the kids and went. You see, I've got a drinking problem. All the money that we had I spent. Now I must die by my own hand, 'cause I'm not man enough to live alone. Dead now that she's gone. She gave the most, took the least. She even had the priest come to our home. And I cried and prayed and promised that I'd leave the stuff alone. Now I must leave what I can't face. I hope she finds the kids a happy home. Hey, she's better off without me, and I'm better off dead now that she's gone. She used to call a friend and cry, and the man cut off the telephone. She'd sit and cry while I went out and pawned the things we own. Now I must die by my own hand, 'cause I'm not man enough to live alone. Hey, she's better off without me, and I'm better off dead. E finisce così. Parano. Sì. Infatti dice meglio morto, e alla fine si vede che un paio di pallottole se le è beccate, almeno nel disco. Sì, poi sto notando ora il disco registrato praticamente per due terzi e un terzo è vuoto. Sì, infatti davvero questa facciata a metà è... Si potrebbe incidere noi qualcosa sopra. Non so se Bill Withers sarebbe così contento di questa cosa. Che altro per il risultato che ne verrebbe fuori, vero? Sì. Incisione a mano sul disco. Con un punteruolo. E quindi siamo, diciamo, quasi addirittura d'arrivo per questa puntata di Basement Records qui su Radio Wombat. E andiamo avanti. Abbandoniamo il nostro super ospite, se non sbaglio. Sì, sì, no. E passiamo a un altro gruppo che definirei molto interessante. Non conoscevo niente di loro. Stiamo parlando dei Redbone, che sono una band americana, anzi, per essere precisi, di nativi americani di pelle rossa, non mi ricordo di che etnia di pelle rossa, Dakota forse, sto cercando, ma non mi ricordo bene. Comunque erano un gruppo di nativi americani che erano molto impegnati nella lotta dei diritti, appunto, dei nativi in America. E questo singolo è stato un singolo di grande successo, perché parlavano sempre comunque di argomenti inerenti alla lotta dei diritti civili dei nativi americani, che, espropriati delle loro terre, messi nelle riserve in mezzo alle praterie e sempre più risicate e sempre più ghettizzati. E appunto questo è stato, forse a ricordo mio, da quanto ho potuto ricercare, sicuramente uno dei primi gruppi di nativi ad avere un successo nazionale, sì, ma soprattutto internazionale, perché il disco, ad esempio, più famoso loro, più impegnato politicamente, era il disco che celebrava la battaglia di Wounded Knee, dove gli americani presero una grandissima batosta, se non ricordo male, comandati da Custer a Wounded Knee. E, insomma, ne buscarono sonoramente, e infatti l'album che celebra questo evento è, se non ricordo male, Siamo tutti figli di Wounded Knee. Chiedo aiuto dalla regia per la conferma. Che non ricordo. We were all wounded at Wounded Knee. Si chiama l'album, appunto. E come prima canzone dei Redbone vi farei sentire Phase 2, che appunto è uno dei, non estratto da quell'album, ma è dell'album precedente dei Redbone, e questa è Phase 2 su Radio Wombat. Allora, dobbiamo fare una errata horridge, come si dice. Una triste puntualizzazione, perché abbiamo detto uno sfondone. Sì, perché a Wounded Knee i Lakota Sioux furono massacrati dal settimo cavalleggeri nel contrario, ecco, nel 1890. Quindi purtroppo la storia è per questo che il disco si chiama Siamo stati tutti feriti a Wounded Knee. Ora torna tutto, vedi? Scusate, per c'è stato un attimo di esaltazione, ma poi siamo dovuti tornare sui nostri passi. E una curiosità dell'album, appunto, We Were All Wounded in Wounded Knee, a causa appunto del dichiarato schieramento da parte degli indiani d'America, questo album è stato quasi totalmente ostracizzato in America, si può dire proprio censurato in America, e quindi non ha avuto quasi per niente successo, se non a roba di nicchia, ma invece è stato numero uno in Europa, sia in Francia, se non sbaglio, che in Olanda. Mi sembra sia stato numero uno questo album, We Were All Wounded in Wounded Knee. Sì, in Olanda proprio è stato numero uno tra, diciamo, nelle classifiche del 1972. E volevo farvi sentire anche il lato B di questo 45 giri, che secondo me a me piace ancora di più del lato A, che è molto, è proprio un canto da nativo americano con questa base molto funky, psichedelica. E questa è Already Here, Brujo. We'll be right back. questa era Already Here, Brujo, dei Redbone. Un pezzo veramente funky prog indemoniato. Era per quello che dicevo, forse, sicuramente mi piace di più del lato A. Bellissimo era questo pezzo, veramente sì, con molto, un tiro micidiale. Sì, una sorta di connubio tra il prog europeo e il funky puramente americano. E cantato dai nativi americani, pensa a te. Mi sembra proprio un bel melting pot, sì. E andiamo avanti con l'ultimo gruppo che presentiamo in questa sera, in questa notte di Basement Records. E presentiamo un'altra meteora, un altro One Hit Wonder. Soprattutto in Europa, conosciuti e presenti nelle classifiche del 1969, sono i Crazy Elephant, e definiti negli Stati Uniti come una bubblegum pop band, quindi proprio roba da classifica, da teenager, fondamentalmente tradotto, sì. E appunto siamo nel 1969 e il loro brano di classifica si chiama Gimme Gimme Good Loving. E tra l'altro uno dei componenti una delle voci dei Crazy Elephant, una volta uscito dai Crazy Elephant, andrà a formare i 10cc, tra l'altro, uno dei cantanti che ora non mi ricordo il nome, però mi sembrava mi ricordo di aver letto questa informazione, che comunque, anche se hanno avuto solo un brano di successo, poi comunque uno dei loro membri andrà a far parte di una band che comunque poi riscuoterà un discreto successo negli anni, alla metà, fine anni 70, inizio anni 80, come i 10cc. E stavo leggendo che il flautista, sassofonista e cantante Kenny Cohen è stato, diciamo, un performer anche con altri gruppi dell'epoca, dei primi anni 70, come gli Eagles, Santana, Rod Stewart e B.B. King. Quindi, insomma, poi hanno avuto solo un successo commerciale, comunque poi questa band è andata a rifornire grandi nomi del panorama rock che poi domineranno gli anni successivi, possiamo dire così. Quindi direi che salutiamo. Possiamo passare ai saluti. Diamo la buona notte, la buona nottata. Anzi, il buon proseguimento. Serata, il buon dai, proseguimento sì, di siamo serata. Fiduciosi. Sì, ancora è presto. Andate fuori. E quindi con Gimme Gimme Good Loving, i Crazy Elephant, 1969. Un saluto da Laidama e da Prog, qui da Basement Records, dagli studi di Radio Wombat. E ci vediamo presto. Buona serata!